A bordo campo di Dario Ricci. I want to ride my Eh sì, parliamo di bicicletta oggi qui a bordo campo e parliamo anche di innovazioni, giovani italiani intraprendenti, insomma, puntata che definirei sfiziosa, ecco. Bicicletta perché? Perché in queste ore in Toscana i grandi campioni del ciclismo mondiale si stanno giocando la maglia iridata sul circuito fiorentino, e allora ci è sembrato d'obbligo proprio di parlare di bicicletta. Matteo Damanzo, benvenuto intanto a bordo campo. Grazie e salve a tutti. Matteo, tu sei appassionato di bici, eh? Senti, chi lo vince questo mondiale secondo te? Guarda, tifoso spero Nibali, poi vedremo. vedremo, poi ce lo racconterà Giovanni Capuano in tutti i convocati, andremo su cronaca e commenti. Ma intanto Matteo, tu e la bicicletta, che c'entrate? Spiegaci un po'. Beh, io sono appassionato di bicicletta e uso la bicicletta qua a Milano come mezzo di trasporto, e questa passione della bicicletta è poi stato il tema su cui ho sviluppato la mia tesi. Eh sì, Matteo, studente del Politecnico di Milano, 27 anni, toscano tra l'altro, no? Tanto per rimanere in tema, di che provincia? Io sono in provincia di Lucca, a Viareggio. Ah beh, quindi insomma terra di ciclisti per antonomasia, appassionato di bici, e sviluppa questo progetto con il Politecnico che si chiama Polybikes. Sì. Qual è l'idea? Perché arriviamo poi al bike sharing, no? Però in una forma nuova e direi molto molto creativa, no? L'idea è quella di recuperare le biciclette che sono state abbandonate dai cittadini per le strade di Milano. Quindi invece di farle diventare dei rifiuti, noi le accomodiamo e le mettiamo al servizio degli studenti e del corpo docenti del Politecnico. Quindi alla fine di creare un servizio di trasporti, gratuito ovviamente. Insomma, idea stuzzicante perché? Perché Matteo e il suo gruppo di lavoro, perché poi questo progetto ha trovato fortunatamente la partnership del comune e di altre istituzioni, anche qualche soldino che male non fa, adesso parleremo anche di quello, andate a recuperare quelli che sono un po' gli scheletri, gli scarti, diciamo anche i ruderi e i residui di queste biciclette che abbandonate o spesso anche rovinate da ruberie varie di ladri e affini, rimangono poi lì per le strade e rappresentano un bel problemino, no? Sì, dobbiamo, io con Alessandro Porta, ragazzo che mi sta aiutando nello sviluppo del progetto, dobbiamo ringraziare il Politecnico che ha e sta credendo in queste iniziative degli studenti. Questo progetto poi è da inserire in un ambito più grande, in un progetto più grande che è quello del campus sostenibile. Quindi ha trovato un terreno fertile, nel senso che c'è un impegno da parte del Politecnico a diventare un organismo, un ente ecocompatibile, ecologico al 100%, cioè su tutti i suoi fronti. Quindi uno di questi appunto è l'accesso, l'accessibilità al campus, e il progetto si sposa in pieno con questa volontà. Quindi l'idea è anche quella di mandare tutti i professori, tutti gli studenti in bicicletta, certo. Poter arrivare al Politecnico, poter ripartire dal Politecnico stesso con le proprie due ruote, no? O con le due ruote messe... Tra l'altro voi fate anche un lavoro di officina, no? Sì, parte fondamentale anche questa, cioè grazie all'aiuto del comune vengono recuperate queste biciclette, e poi verrà anche istituita, creata un'officina, sempre portata avanti dagli studenti volontari, e in cui ripariamo queste biciclette. Quindi parte dell'officina viene utilizzata per riparare le biciclette e le bike sharing, però rimarrà anche aperta a servizio appunto degli studenti e della popolazione locale. Quindi ci sarà anche la volontà di aprire le porte dell'università, che è un luogo pubblico, anche ai vicini. Sono ragazzi che si sporcano le mani, ma proprio pure col grasso della catena, perché insomma non hanno solo avuto l'idea, ma si mettono anche lì attrezzi alla mano per recuperare queste biciclette. E quello che mi ha impressionato è il numero, no? Cioè le stime dicono che sono circa 700 l'anno le biciclette abbandonate nella sola Milano, no? Mica poche. No, no, poi è un trend negativo purtroppo che se ne va aumentando. Cioè, i primi dati appunto di queste 700 risalgono al 2010. E si diceva ai tempi, quando io ho iniziato la ricerca per la tesi, che c'era un incremento del 15-20% l'anno. E un'altra cosa negativa è che è un, cioè dal mio punto di vista negativo, è che è un fenomeno che non è di Milano, ma si può ritrovare in tutte le grandi città italiane, europee e mondiali, diciamo così. Io sempre grazie al Politecnico ho avuto la fortuna di andare a New York, e l'idea è anche nata là, dove si trovano ancora di più, nel senso a New York si parla di più di mille di biciclette abbandonate l'anno. Insomma, fa anche un po' di malinconia, no? Pensarle così, queste due ruote che accompagnano tante domeniche spensierate, poi lasciate lì da pedalatori senza cuore. Per fortuna c'è Polybikes con questo progetto. Beh, Matteo, ti chiedo, ci sono anche dei problemini burocratici, no? Perché in realtà per recuperare questi scheletri di biciclette, questi resti, non è così facile, non si può andare lì e prendere questi oggetti per rilavorarli, per recuperarli, ma c'è un iter, anche in questo caso, burocratico, sicuramente stucchevole a dir poco, no? Sì, certo, il cavillo è il fatto di proprietà privata su suolo pubblico. Capirai. E appunto il problema poi è definire questa proprietà privata che sembra abbandonata. Quindi ci sono dei criteri a cui la bicicletta deve sottostare per essere definita abbandonata. Una volta che la bicicletta viene definita abbandonata, e solo la polizia può farlo, la polizia ha l'autorità giuridica per tagliare il lucchetto. E in quel punto interviene il nostro servizio. Quindi voi state anche alle calcagne dei poliziotti, che, cioè, è curioso anche vedere questo scheletro di bicicletta, il poliziotto col tenaglione e dietro Matteo che aspetta il momento in cui questa catena viene finalmente spezzata per impossessarsi di questo scheletro, per poi poterlo lavorare. Senti, sviluppi futuri di Polybike, a che punto siamo? È arrivato questo finanziamento, da che fonte? Sono tra l'altro intorno agli 8.000 euro, quindi sì. Non è che parliamo di cifre milionarie. È il Politecnico che stanzia dei finanziamenti per le iniziative degli studenti. Quindi è molto bello vedere come il Politecnico ci dia tanto da parte dei professori e della cultura, ma ci dia anche qualcosa per realizzare i progetti che noi creiamo. Quindi insomma c'è questo primo finanziamento, l'obiettivo è poi quello di renderlo forse un pochino più sostanzioso e più strutturale, sì. No? E partiremo con un progetto pilota, diciamo, che coinvolgerà una quarantina di biciclette all'interno dei tre campus, per poi, se avremo una buona risposta da parte degli studenti, perché no, ci ingrandiremo e magari riusciremo a creare un servizio completo di trasporto che implichi i tre grandi poli, quindi abbiamo il Politecnico, il Campus Bovisa, Leonardo e la Masa. Senti, Expo 2015 alle porte, c'entrate anche voi con le vostre due ruote? Riuscite a agganciarvi a questo treno? Qualcuno va contattato? Beh, per ora diciamo che siamo sui primi sviluppi del progetto, primi sviluppi intendo concreti e reali, però è anche vero che l'Expo ha dato molto, cioè sta dando molto per quanto riguarda la bicicletta, e sta dando molto per quanto riguarda creare un ambiente favorevole per l'utilizzo della bicicletta, quindi ti dico perché no. E ti chiedo io, per contattarvi, per saperne di più in merito a Polybikes e al vostro progetto. Sì, abbiamo un sito internet che è policiclo.it, altrimenti ci trovate su Facebook. Perfetto. Senti, un'ultima domanda prima di salutarti. Abbiamo detto, sei anche tu appassionato ciclista, non dirmi che hai una bicicletta nuova però. No, solo biciclette vecchie. E utili da lasciare legate ai pali, via. Ah, perfetto, quindi seguendo Matteo D'Amanzo magari anche voi recuperate due ruote per godervi Milano. Allora intanto grazie Matteo per essere stato nostro ospite, buona pedalata direi. Grazie a voi e buone pedalate, e usate la bicicletta. A bordo campo. Evra dentro secondo palo, Rooney! E il Manchester United passa in vantaggio al 22esimo. Wayne Rooney è 1-0. Attenzione a Rooney in area. Rooney! Questa volta non sbaglia. Wayne Rooney, doppietta. Due gol all'esordio in Champions League, esordio vincente contro il Bayer Leverkusen, una rete, una splendida punizione nel derby di Manchester. Ai per lui, stavolta davvero sfortunato per i suoi Red Devils contro un City che è sembrato inarrestabile. Beh, non si può dire che la ferita alla testa che a inizio settembre Wayne Rooney, il famosissimo centravanti dell'Inghilterra e del Manchester United, si è procurato facendo degli esercizi in palestra con il suo compagno di squadra Phil Jones, non si può dire che ne abbia condizionato la mira. Bisogna anche dire che Rooney è riuscito a proteggere al meglio quella ferita, che per un centravanti in particolare, per un qualsiasi giocatore di calcio, ma per un centravanti in particolare, tra l'altro con grandi doti acrobatiche come il buon Wayne, risultava parecchio problematica. È invece riuscito a proteggerla al meglio con un caschetto, con una fascia, diciamo così, che è già diventata oggetto di culto. E allora oggi a Bordo Campo, lo sapete, ci andiamo a togliere un po' tutte le curiosità relative al calcio e allo sport, andiamo proprio a capire come è nata questa protezione così singolare, e per farlo ci colleghiamo con Claudio Storelli in diretta da New York. Benvenuto Claudio a Bordo Campo. Grazie. Ecco, spiegaci un po' come mai sei diventato così importante per uno dei più grandi centravanti del mondo. Come nasce questa idea di mettere in testa a Rooney questa protezione così particolare, e come mai è venuto a bussare proprio alla tua porta? Allora, tutto inizia nel 98, quando i miei genitori decisero di mandarmi a studiare all'estero per un anno. Al tempo avevo 15 anni, quindi era abbastanza prematura come cosa, nel senso che ero abbastanza giovane, però diciamo un po' stanco del liceo classico a Milano, ho deciso di buttarmi e cercare di imparare l'inglese. Da lì ho iniziato un iter accademico e professionale che si è mosso molto in fretta, quindi ho iniziato, dopo aver vissuto negli Stati Uniti per un anno, sono riuscito a vincere una borsa di studio e a trasferirmi in California per iniziare l'università a 16 anni. Ora che avevo 20 anni mi ero laureato da Stanford University in California, e poi avevo iniziato un master in diritto internazionale alla Columbia qua a New York. Dopo aver finito questo master, ho detto avvocato, avevo 23 anni e non avevo ancora in realtà nessuna esperienza lavorativa vera, però avevo tutti questi diplomi che avevo accumulato, sono entrato nel mondo della consulenza lavorando per McKinsey & Company, che ha pure presenza in Italia, sempre qui a New York, sono entrato nel mondo della finanza. Sentite solo che curriculum che ha Claudio Storelli, tanto per dire, noi sapete bene come approfondiamo anche il tema dei cervelli in fuga, insomma è stato davvero un peccato lasciarsi sfuggire questo curriculum. Comunque, caro Claudio, torniamo invece proprio appunto all'idea, c'era la necessità un po' di mettere a frutto tutte queste competenze in modo innovativo, no? Sì, quindi mentre lavoravo nel mondo della finanza, uscendo da una partita di calcetto qua vicino a Wall Street, ho visto che i miei compagni di squadra uscivano sanguinanti dalle ginocchia, dai fianchi, zoppicanti, e quindi mi è venuto in mente con un collega al tempo di McKinsey di far partire una marca sportiva che si concentrasse esclusivamente sulla protezione intelligente per i calciatori. Siamo già arrivati in zona Rooney. Esattamente, questo è successo 2-3 anni fa, e abbiamo sviluppato una linea che da capo a piede protegge i calciatori utilizzando delle tecnologie che non sono utilizzate nel mondo dello sport oggi, per questo che viene chiamato un casco spaziale, perché quei tipi di materiali sono utilizzati nella NASA per alcuni scopi molto diversi. Ecco, duro come cemento, morbido come gomma piuma, leggero come aria, questa è la fascetta, sì, perché poi tra l'altro nella parte alta è comunque aperta questa fascia di che Rooney sta indossando in questo periodo per proteggere quella ferita. Ecco, nello specifico, Claudio, che materiale è? Questo è un materiale che abbiamo sviluppato in collaborazione con una fabbrica che costruisce e disegna elmetti per le forze speciali americane. Quindi ci siamo proprio messi, non riuscendo a trovare dei materiali che potessero proteggere bene la testa che poi diventa molto calda durante l'attività agonistica, quindi molti materiali si ammorbidiscono e rischiano di diventare tipo pongo, quindi la palla presente verrebbe quasi fermata dalla fascetta, invece altri col freddo diventano molto rigidi e quindi hanno quasi un effetto opposto. Abbiamo dovuto lavorare con dei materiali che sono adatti alla protezione sia in Antartica che in Afghanistan, e quindi siamo andati a lavorare direttamente con fabbriche che lavorano per l'esercito americano. Insomma, spesso proprio dall'ambito militare nascono innovazioni portentose che si sono poi però sommate al tuo spirito imprenditoriale, perché quando hai visto Rune infortunato ti sei subito offerto, no, di dargli una mano. Certo, in realtà stavo leggendo la Gazzetta dello Sport, anche se sono qua negli Stati Uniti, e ho visto la foto e ho immediatamente informato il mio team qua a New York, e ci siamo messi in contatto tramite dei nostri contatti professionali con lo staff medico del Manchester United, il che quasi incuriosito, immagino, e non avendo una soluzione adatta, perché in realtà l'alternativa era di fasciarlo a stile mummia sulla testa o di dargli un caschettino tipo Peter Cech o Kivu, che sono non esattamente adatti ai colpi di testa. Ci hanno chiesto dei campioni, sono arrivati i campioni il giovedì sera, lui aveva giusto il tempo per allenarsi il venerdì, nessuno pensava avrebbe giocato, in realtà gli è piaciuto così tanto che si sono sentiti tutti così sicuri che il venerdì ha fatto il suo debutto in Premier League contro il Crystal Palace segnando un gol, e poi ha giocato con l'Everkusen e poi col Manchester City. Ecco, toglici una curiosità, fai finta che non ci ascolti nessuno, quanto costa un caschetto di quel tipo? Anche perché potrebbe diventare anche un oggetto di moda, eh? Sì, vedremo. Se vuoi te ne mando un paio così vai in discoteca. Va bene, va bene, ci sto. ma il prodotto al pubblico costa intorno a 60 euro. Ah, quindi non è, si può fare. L'abbiamo creato, sì, si può fare, perché l'obiettivo del nostro marca non è quella di diventare una marca che protegge solo i calciatori di Serie A, ma in realtà vogliamo proteggere i ragazzi come me che giocavano in periferia su campi praticamente in cemento armato, prendendo botte sia in allenamento che in partita, e che uscivano malconci. Quindi noi vogliamo essere, abbiamo voluto creare dei prodotti che siano alla portata un po' di tutti. Quindi prezzo contenuto, e avete avuto anche qualche ringraziamento diretto da parte di Rune? Vi ha mandato qualche mail, un saluto? No, nessun contatto diretto, ma devo dire che non me lo sono mai aspettato, perché nonostante in realtà gli abbiamo dato una bella botta all'inizio della stagione, immagino che abbia mille altre cose a cui pensare, e poi soprattutto dei contratti molto importanti con varie marche, quindi dubito che un ringraziamento sarebbe stato una mossa intelligente, però siamo contenti così, abbiamo avuto un impatto importante su un giocatore importante, rivederlo in campo e dare quella gioia sia a lui che ai tifosi per noi è un po' una soddisfazione a sé stante. E poi c'è il colmo dei colmi, perché con questo caschetto tu, Claudio Storelli, hai dato una mano a uno dei più grandi centravanti del mondo, tu che invece sei stato un buon portiere a livello di università americana, no? Sì, esattamente, non sarei mai diventato un Buffon, però forse mi sarei riuscito a fare una Serie C tranquilla, però ho deciso di proseguire per i miei studi e sì, diciamo che avrei cercato di bloccare Rooney, non farlo segnare, adesso sono riuscito a debuttare in Champions League, ma tramite caschetto, non personalmente. Diciamo che ci vuole una buona testa per riuscire in certe imprese, no? Sì, c'è dovuta più che altro molto impegno e tantissima fortuna, perché anche in queste cose il tempismo è stato davvero essenziale, e tutto è stato dovuto al fatto che ero lì a leggere la Gazzetta in quel momento e poi tutte le stelle si sono allineate in modo giusto e siamo riusciti in questa impresa. Insomma, la fortuna aiuta gli audaci, bravi imprenditori come Claudio Storelli della Storelli Sports, che ringraziamo per essere stato nostro ospite a bordo campo in diretta da New York e per averci restituito e regalato e aver voluto condividere con noi le prodezze di un campione come Wayne Rooney. È stato un piacere tutto mio e grazie ancora per l'opportunità. Anche anche per questa puntata di A Bordo Campo è tutto. Un grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che potete contattarci scrivendoci alla mail abordocampo@radio24.it, riascoltarci dal sito www.radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo. Novità importante la prossima domenica, perché non andremo più in onda alle 14.30 ma alle 16.30 e fino alle 17, fino all'appuntamento con tutti i convocati. Quindi A Bordo Campo cambia orario, andremo in onda alle 16.30. Resta invece invariato l'appuntamento della replica del sabato mattina a partire dalle 6.15. Ancora una buona domenica da Dario Ricci.